Sezione 4 di Il Decameron, parte 1, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Marzia Marianera. Il Decameron, parte 1, giornata prima di Giovanni Boccaccio. Introduzione parte 3. L'altre donne, udita Pampinea, non solamente il suo consiglio lodarono, ma desiderose di seguitarlo, avevano già più particolarmente tra sé cominciato a trattare del modo, quasi, quindi levandosi da sedere, a mano dovessero entrare in cammino. Ma Filomena, la quale discretissima era, disse: «Donne, quantunque ciò che ragiona Pampinea sia ottimamente detto, non è perciò così da correre a farlo, come mostra che voi vogliate fare. Ricordivi che noi siamo tutte femmine, e non ce n'ha niuna sì fanciulla che non possa ben conoscere come le femmine sien ragionate insieme e senza la provvedenza d'alcuno uomo si sappiano regolare. Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose, per le quali cose io dubito forte se noi alcuna altra guida non prendiamo che la nostra, che questa compagnia non si dissolva troppo piuttosto e con meno onor di noi che non ci bisognerebbe. E perciò è buono a provvederci avanti che cominciamo». Disse allora Elissa: «Veramente gli uomini sono delle femmine capo, e senza l'ordine loro rade volte riesce alcuna nostra opera a laudevole fine. Ma come possiamo noi aver questi uomini? Ciascuna di noi sa che dei suoi sono la maggior parte morti, e gli altri che vivi rimasti sono chi qua e chi là in diverse brigate, senza saper noi dove, vanno fuggendo quello che noi cerchiamo di fuggire, ed il pregare gli strani non sarebbe convenevole, perché se alla nostra salute vogliamo andar dietro, trovarsi convien modo di sì fattamente ordinarci che, dove per diletto e per riposo andiamo, noia e scandalo non ne segua». Mentre tra le donne erano così fatti i ragionamenti, ed ecco entrare nella chiesa tre giovani, non perciò tanto che meno di 25 anni fosse l'età di colui che più giovane era di loro, nei quali né perversità di tempo, né perdita d'amici o di parenti, né paura di se medesimi, avea potuto amor, non che spegnere, ma raffreddare. Dei quali l'uno era chiamato Panfilo, e Filostrato il secondo, e l'ultimo Dioneo, assai piacevole e costumato ciascuno. Ed andavan cercando per loro somma consolazione in tanta turbazione di cose di veder le lor donne, le quali per ventura tutte e tre erano tra le predette sette, come che dell'altre alcune ne fossero congiunte parenti d'alcuni di loro, né prima esse agli occhi corsero di costoro che costoro furono da esse veduti, perché Pampinea allor cominciò sorridendo: «Ecco che la fortuna a nostri cominciamenti è favorevole, e dacci davanti posti discreti giovani e valorosi, li quali volentieri e guida e servidor ne saranno se di prenderli a questo ufficio non schiferemo». Nei file allora, tutta nel viso divenuta per vergogna vermiglia, perciò che l'una era di quelle che dall'un dei giovani era amata, disse: «Pampinea, per Dio, guarda ciò che tu dichi. Io conosco assai apertamente niun'altra cosa che tutta buona dir potersi di qualunque sell'un di costoro, e credogli a troppo maggior cosa che questa non è sufficiente, e similmente avviso loro buona compagnia ed onesta dover tenere, non che a noi, ma a molto più belle e più care che noi non siamo. Ma perciò che assai manifesta cosa è, loro essere d'alcune che qui ne sono innamorati, temo che infamia e riprensione senza nostra colpa o di loro non ce ne segua se gli meniamo». Disse allora Filomena: «Questo non monta niente. Là dove io onestamente viva né mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole in contrario. Iddio e la verità l'armi per me prenderanno. Ora, fossero essi pur già disposti a venire, che veramente, come Pampinea disse, potremmo dire la fortuna essere alla nostra andata favoreggiante». L'altre, udendo costei così fattamente parlare, non solamente si tacquero, ma con consentimento concorde tutte dissero che essi fossero chiamati e loro si dicesse la loro intenzione, e pregassersi che dovesse lor piacere in così fatta andata lor tener compagnia. Perché, senza più parole, Pampinea, levatasi in piè, la quale ad alcun di loro per consanguinità era congiunta, verso loro che fermi stavano a riguardarle si fece, e con lieto viso salutatigli, loro la lor disposizione fe manifesta, e pregogli, per parte di tutte, che con puro e fratellevole animo a tener lor compagnia si dovessero disporre. I giovani si credettero primieramente essere beffati, ma poi che videro che da dovero parlava la donna, risposero lietamente se essere apparecchiati, e senza dare alcuno indugio all'opera, anzi che quindi si partissono, diedono ordine a ciò che a fare avessono in sul partire. Ed ordinatamente fatta ogni cosa opportuna apparecchiare, e prima mandato là dove intendevan d'andare, la seguente mattina, cioè il mercoledì, in sullo schiarir del giorno, le donne, con alquante delle lor fanti e di tre giovani, con tre lor familiari, usciti dalla città, si misero in via. Né, oltre a due piccole miglia, si dilungarono da essa, che essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade, di vari albuscelli e piante tutte di verdi frondi ripiene, piacevole a riguardare. In sul colmo della quale era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete di pinture ragguardevole ed ornata, con pratelli d'attorno e con giardini maravigliosi e con pozzi d'acque freschissime e con volte di preziosi vini, cose più atte a curiosi bevitori che a sobrie ed oneste donne, il quale tutto spazzato e nelle camere i letti fatti ed ogni cosa di fiori quali nella stagione si potevano avere piena e di giunchi giuncata, la veniente brigata trovò con suo non poco piacere. E postisi nella prima giunta a sedere, disse Dioneo, il quale, oltre ad ogni altro, era piacevole giovane e pieno di motti, «Donne, il vostro senno più che il nostro avvedimento ci ha qui guidati. Io non so quello che dei vostri pensieri voi vi intendete di fare. Li miei lasciai io dentro dalla porta della città allora che io con voi poco fa me n'uscii fuori. E perciò o voi a sollazzare ed a ridere ed a cantare con meco insieme vi disponete. Tanto, dico, quanto alla vostra dignità s'appartiene. O voi mi licenziate che io per li miei pensier mi ritorni e steami nella città tribolata». A cui Pampinea, non d'altra maniera che se similmente tutti i suoi avesse da sé cacciati, lieta rispose: «Dioneo, ottimamente parli. Festevolmente viver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha fatte fuggire. Ma perciò che le cose che sono senza modo non possono lungamente durare, io che cominciatrice fui dei ragionamenti da quali questa così bella compagnia è stata fatta, pensando al continuare della nostra letizia, estimo che di necessità sia convenire esser tra noi alcun principale, il quale noi ed onoriamo ed ubbidiamo come maggiore, nel quale ogni pensiero stea di doverci allietamente viver disporre. Ed acciò che ciascuno provi il peso della sollecitudine insieme col piacere della maggioranza, e per conseguente da una parte e d'altra tratti, non possa chi non prova invidia avere alcuna, dico che a ciascuno per un giorno s'attribuisca ed il peso e l'onore, e chi il primo di noi esser debbe nell'elezione di noi tutti sia. Di quegli che seguiranno, come l'ora del vespro s'avvicinerà, quegli o quella che a colui o a colei piacerà che quel giorno avrà avuto la signoria, e questo cotale secondo il suo arbitrio, del tempo che la sua signoria debba bastare, del luogo e del modo nel quale a vivere abbiamo ordini disponga». Queste parole sommamente piacquero, e ad una voce lei prima del primo giorno elessero. E Filomena, corsa prestamente da uno a loro, perciò che assai volte aveva udito ragionare di quanto onore le frondi di quello eran degne e quanto degno d'onore facevano chi n'era meritamente incoronato, di quello alcuni rami colti ne le fece una ghirlanda onorevole ed apparente, la quale, messale sopra la testa, fu poi, mentre durò la loro compagnia, manifesto segno a ciascuno altro della real signoria e maggioranza. Pampinea, fatta reina, comandò che ogni uom tacesse, avendo già fatti i familiari dei tre giovani e le loro fanti, che erano quattro, davanti chiamarsi, e tacendo ciascun, disse: «A ciò che io prima esemplo dè a tutti voi, per lo quale, di bene in meglio procedendo, la nostra compagnia con ordine e con piacere e senza alcuna vergogna viva e duri quanto a grado ne fia, io primieramente costituisco Parmeno, familiare di Dioneo, mio siniscalco, e da lui la cura e la sollecitudine di tutta la nostra famiglia commetto e ciò che al servigio della sala appartiene. Sirisco, familiar di Panfilo, voglio che di noi sia spenditore e tesoriere, e di Parmeno seguiti i comandamenti. Pindaro, al servigio di Filostrato e degli altri due, attenda nelle camere loro, qualora gli altri, intorno alle loro uffici impediti, attender non vi potessero. Misia, mia fante, e Licisca di Filomena, nella cucina saranno continue e quelle vivande diligentemente apparecchieranno, che per Parmeno loro saranno imposte. Chimera di Lauretta e Stratilia di Fiammetta al governo delle camere delle donne intente vogliamo che stiano, e dalla nettezza dei luoghi dove staremo. E ciascun generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra grazia, vogliamo e comandiamo che si guardi, dove che egli vada, onde che egli torni, che egli oda o veggia che niuna novella, altra che lieta, ci rechi di fuori. E questi ordini sommariamente dati, li quali da tutti commendati furono, lieta drizzata in piedi disse: «Qui sono giardini, qui sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli assai, per li quali ciascuno a suo piacer sollazzando si vada. E come terza suona, ciascun qui sia, a ciò che per lo fresco si mangi». Licenziata adunque dalla nuova reina la lieta brigata, li giovani insieme con le belle donne, ragionando dilettevoli cose, con lento passo si misero per un giardino, belle ghirlande di varie frondi facendosi ed amorosamente cantando. E poiché in quello tanto fur dimorati quanto di spazio dalla reina avuto aveano, a casa tornati trovarono Parmeno studiosamente aver dato principio al suo ufficio. Perciò che, entrati in una sala terrena, quivi le tavole messe videro con tovaglie bianchissime e con bicchieri che d'ariento parevano, ed ogni cosa di fiori di ginestra coperta. Perché, data l'acqua alle mani, come piacque alla reina, secondo il giudicio di Parmeno, tutti andarono a sedere. Le vivande delicatamente fatte vennero e finissimi vini fur presti, e senza più chetamente li tre familiari servirono le tavole. Dalle quali cose, perciò che belle ed ordinate erano, rallegrato ciascuno con piacevoli motti e con festa mangiarono. E levate le tavole, con ciò fosse cosa che tutte le donne carolar sapessero similmente i giovani, e parte di loro ottimamente, e sonare e cantare, comandò la reina che gli strumenti venissero, e per comandamento di lei, Dioneo preso un leuto e la Fiammetta una viola, cominciarono soavemente una danza a sonare. Perché la reina con l'altre donne, insieme con due giovani presa una carola, con lento passo, mandati i familiari a mangiare, a carolar cominciarono. E quella finita, canzoni vaghette e liete cominciarono a cantare. Ed in questa maniera stettero, tanto che tempo parve alla reina d'andare a dormire. Perché, data a tutti la licenza, li tre giovani alle loro camere, da quelle delle donne separate, se n'andarono. Le quali, coletti ben fatti e così di fiori piene come la sala, trovarono. E simigliantemente le donne le loro, perché, spogliatesi, s'andarono a riposare. Non era di molto spazio sonata nona che la reina, levatasi, tutte l'altre fece levare, e similmente i giovani, affermando esser nocivo il troppo dormire il giorno. E così se n'andarono in un pratello nel quale l'erba era verde e grande, né vi poteva da alcuna parte il sole. E quivi, sentendo un soave venticello venire, sì come volle la lor reina, tutti sopra la verde erba si posero in cerchio a sedere, a quali ella disse così: «Come voi vedete, il sole è alto ed il caldo è grande, né altro sode che le cicale su per gli ulivi, perché l'andare al presente in alcun luogo sarebbe senza dubbio sciocchezza. Qui è bello e fresco stare, ed acci, come vedete, e tavoliere e scacchieri, e puote ciascuno secondo che all'animo gli hai più di piacere di letto pigliare. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giocando, nel quale l'animo dell'una delle parti convien che si turbi senza troppo piacere dell'altra o di chi sta a vedere, ma novellando, il che può porgere, dicendo uno, a tutta la compagnia che ascolta di letto, questa calda parte del giorno trapasseremo. Voi non avrete compiuta ciascuno di dire una sua novelletta che il sole fia declinato ed il caldo mancato, e potremo, dove più a grado vi fia, andare prendendo diletto. E perciò, quando questo che io dico vi piaccia, che disposta sono in ciò di seguire il piacer vostro, facciamolo. E dove non vi piacesse, ciascuno infine all'ora del vespro quello faccia che più gli piace. Le donne parimente e gli uomini tutti lodarono il novellare. Adunque, disse la reina, se questo vi piace, per questa prima giornata voglio che libero sia a ciascuno di quella materia a ragionare che più gli sarà a grado. E rivolta a Panfilo, il quale alla sua destra sedea, piacevolmente gli disse che con una delle sue novelle all'altre desse principio. Laonde Panfilo, udito il comandamento, prestamente, essendo da tutti ascoltato, cominciò così. Fine della sezione 4.